Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Questo rumore è il motore di una Fiat 500 Topolino, la celebre utilitaria con la quale molti italiani hanno attraversato l'Italia fino alla metà degli anni 50. Certo, una macchina di successo, un modello affidabile, niente a che vedere con un altro genere di auto che si produce in una piccola cittadina della pianura padana nei pressi di Modena. Siamo a Maranello, davanti ai cancelli della Ferrari. Davanti all'entrata della fabbrica, con i suoi caratteristici occhiali scuri, c'è proprio lui, The Drake, come lo chiamano tutti, Enzo Ferrari. Nel mondo dei motori, la Ferrari è ormai diventata un mito, ed avere la possibilità di lavorare nella fabbrica diretta dal suo fondatore, costruendo e progettando modelli sportivi come se fossero dei figli, è il sogno di tutti coloro che crescono con la passione per le auto da corsa. Ecco perché il giovanotto neanche trentenne che sta guidando la Topolino, appena passa davanti ai cancelli della Ferrari, rallenta per guardare con ammirazione e un pizzico di invidia gli operai che stanno varcando quel cancello. Lui arriva da Arese, dalla sede dell'Alfa Romeo, con la sua 500C, sta tornando a casa, a Quercianella, a due passi da Livorno. Un bel viaggio, visto che bisogna scavalcare gli Appennini e il passo della Betone non è uno scherzo, soprattutto se affrontato con una macchinetta che non supera di molto la velocità massima di 90 km all'ora. Ma questo giovanotto livornese è tranquillo. In fondo è un ingegnere, laureato a pieni voti e per di più con la passione della meccanica. Quindi, se il motore dovesse tradirlo, sarebbe capace di smontarlo e rimontarlo meglio di prima. Il suo nome è Giotto Bizzarrini. Giotto Bizzarrini. Proprio quando sta passando davanti ai cancelli della Ferrari, Giotto Bizzarrini vede Enzo Ferrari e così, da buon toscanaccio spontaneo e irriverente, si ferma proprio davanti a lui, scende con calma dall'auto e si presenta, deciso a giocarsi la carta che la fortuna gli ha appena messo in mano. Dall'Alfa Romeo da Milano con la Topolino, con quella lì, andavo a Quercianella via Betone e ho trovato il comandante Ferrari a Maranello, che mi aspettava, e si è cominciato a parlare. E poi sono andato alla Ferrari, quel giorno lì. Certe volte basta uno sguardo, una sensazione per conoscere una persona e fidarsi. Enzo Ferrari dà un'occhiata alla macchina, poi a Bizzarrini, e si convince che in quel ragazzotto che gli si è messo di fronte deve esserci qualcosa di particolare. E così lo assume. Cioè, uno va alla Ferrari perché trova Ferrari sulla strada, no? Fa quattro chiacchiere. Se io vengo dall'Alfa Romeo, e dove va? A Quercianella. E stesse zitto. Dopo un po', dopo avermi assunto, mi disse: Zarini, lo sai perché ti ho assunto? Dice: tanto intelligente non deve essere, ma deve avere tanto coraggio, perché con quel troviaio, con la mia 500, andavo via a Betone, andavo a Quercianella. Con questo insolito colloquio, Giotto Bizzarrini entra a far parte del reparto progetti della Ferrari e inizia a lavorare ai prototipi da cui nascono due dei modelli più riusciti della storica azienda di Maranello, la Ferrari Testa Rossa e la Ferrari 250 GTO, un bolide da 300 cavalli, ben diversa dalla Topolino con cui Bizzarrini ha attraversato la Betone. Bizzarrini lavora alla progettazione, dove si realizzano i prototipi delle vetture che poi devono essere adeguati alle normative di sicurezza internazionali. Sui progetti di Bizzarrini lavora anche l'ingegner Mauro Forghieri, che ricorda in questo modo il collega toscano. Quando entrai in Ferrari, lui era l'uomo della sperimentazione, quindi per me era uno di quelli cui dovevo guardare. E poi mi ha messo in condizione di lavorare su una macchina magnifica, che era la GTO, che lui aveva di cui lui aveva fatto il prototipo primo, e ci rimane da omologare tutto quanto, dovevamo lavorare, quindi mi ha dato da mangiare per un anno. Bizzarrini è un vero e proprio artigiano. La cura maniacale per i particolari lo porta a correggere in continuazione il progetto a cui lavora per poter ottenere le prestazioni migliori. La caratteristica principale dei motori Ferrari è il 12 cilindri, il motore a 6 cilindri contrapposti che Enzo Ferrari ha visto per la prima volta su un'auto americana, la Packard, e di cui si è follemente innamorato, decidendo di utilizzarlo su tutti i suoi modelli. I motori progettati da Bizzarrini sono perfetti e spesso risultano dare delle performance superiori alle attese. È lo stesso Drake a frenare l'entusiasmo di Bizzarrini, perché comunque non vuole dare alle sue automobili un aspetto troppo cattivo. Le Ferrari devono essere paragonate a delle principesse e non a delle donne di malaffare. E quindi il motore deve cantare senza diventare volgare. Avrà lo scarico calibrato e un odore che non inquina, lo potrà respirare un bambino o una bambina. L'Emilia Romagna è terra di agricoltori. La fertile pianura padana attraversata dal fiume Po rappresenta un bacino insostituibile per l'economia agricola italiana. Nei primi anni del Novecento, gli abitanti di Cento, vicino a Ferrara, lavorano con fatica nei campi e solo pochi fortunati hanno la possibilità di mandare i propri figli a studiare per inseguire una carriera differente da quella dell'agricoltore. Ferruccio è un ragazzo studioso ed appassionato di meccanica. La sua passione è così forte da riuscire a convincere il padre a liberargli una stalla per poter creare una piccola officina dove iniziare a fare piccoli lavoretti per amici e conoscenti. A 30 anni, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il ragazzo appassionato di automobili deve decidere cosa fare del suo futuro. Vuole coltivare il suo amore per la meccanica, ma allo stesso tempo non rinnega le sue radici di figlio di agricoltori, e così intraprende un'attività che gli permette di stare nel mezzo e accontentare tutti: costruire trattori. Il suo nome è Ferruccio Lamborghini. Ferruccio Lamborghini. Partendo dal trattore, quindi legato alla campagna, lui sapeva quanto aveva bisogno la campagna di mezzi di ricrescere dopo, di rinascere dopo il periodo duro bellico. I trattori già esistevano, ma costavano tanto, quindi solo pochi ricchi agricoltori se lo potevano permettere. Dal racconto di Fabio, nipote di Ferruccio Lamborghini, possiamo conoscere gli inizi della carriera del costruttore ferrarese, una carriera nata dalla necessità di offrire anche a chi non se lo può permettere uno strumento di lavoro prezioso e insostituibile come il trattore. Lamborghini ha voluto dare il trattore a tutti, il trattore per il popolo, per cui a basso costo. La grande intuizione di Lamborghini è dunque quella di recuperare i vecchi residuati bellici avanzati dall'ultima guerra, i motori Morris lasciati dagli inglesi, e con questi equipaggiare dei trattori alla portata di tutti, anche di chi non ha sufficienti risorse economiche per potersi permettere un costoso trattore Fiat. C'era però un grosso problema tecnologico: questi motori funzionavano a benzina. La benzina costava tantissimo all'epoca, probabilmente più di oggi. Quindi teoricamente non era un motore idoneo per fare un trattore economico. Ma Lamborghini, grande mente meccanica, inventa un componente battezzato vaporizzatore, e tramite questa cosa aggiuntiva il motore da benzina funzionerà a petrolio. Con questo accorgimento i motori dei trattori Lamborghini hanno sì l'accensione a benzina, ma durante la marcia utilizzano come combustibile il petrolio, molto più economico. È sicuramente un'intuizione geniale. D'altronde Ferruccio Lamborghini la passione per i motori ce l'ha da sempre, sin da quando, chiuso nella stalla trasformata in officina, modifica la sua prima auto. Amava le macchine veloci, ma non aveva i soldi per comprarsele. Lamborghini, allora che aveva una Topolino, decise di rendere veloce questa macchina che al massimo faceva i 70 km all'ora. E allora che fai? Deve intervenire sul motore. Con la passione tipica degli uomini della sua terra, Lamborghini smonta pezzo per pezzo la sua Topolino, modificando la carrozzeria e facendo sostanziali modifiche al motore. Alla fine il risultato è sorprendente. Lo potenzia, lo porta a 650, doppio carburatore, testate in bronzo, pistoni, bielle, stravolge praticamente tutto quella che era la meccanica originale, e alla fine questa macchina diventerà velocissima, raggiungerà, pensate un po', i 160 km all'ora. E con questa macchina costruita nel 1947, Lamborghini parteciperà alla 1000 miglia del 1948. Sul frontale della macchina c'è un logo, FLC, che sta per Ferruccio Lamborghini 100, dal nome del paese dove ha sede l'azienda produttrice di trattori, che intanto inizia la produzione del primo modello, il Carioca. Carioca ti ricorda i poveri di Rio, quindi c'ha un'attinenza, un trattore povero ma che andava benissimo, costruito, ma in realtà Carioca era un termine che in questa zona significava che era un motore che avevi appunto eri riuscito ad ottenere utilizzando, come dicevo prima, prodotti già esistenti e modificati, una specie di puzzle. Il trattore costa la metà degli altri modelli presenti sul mercato ed è anche più potente. In poco tempo la Trattori Lamborghini conquista il mercato e Ferruccio, il figlio di un contadino, può finalmente permettersi il sogno di ogni appassionato d'auto. Una Ferrari. Ferruccio Lamborghini ama le auto sportive e dopo anni di sacrifici finalmente è riuscito a comprarsi una Ferrari. Ma è la prima di una collezione che comprenderà anche Aston Martin, Jaguar, Maserati, sempre alla ricerca di un modello capace di soddisfarlo al 100%, sia nella velocità che nella meccanica. Ma l'automobile perfetta sembra non esistere, come ci racconta il nipote Fabio. Lui aveva nel 61 due Ferrari, 250 GT, ed era già tanto all'epoca averne una. Il grosso problema, la frizione, si bruciava di frequente. Portata la Ferrari a Maranello, tornava a casa, passava poco tempo e si ripeteva il problema. E allora decide di provarci lui. Studia la situazione e capisce che la frizione che utilizza Ferrari non è quella idonea per quel tipo di motore. È sottodimensionato, pertanto non regge a lungo gli strati potenti. Allora la butta, la toglie, la cambia, la butta via, tanto non può. Non può andare bene, ma cosa ci mette al suo posto? Ci metterà, pensate un po', la frizione del suo trattore. Avete capito bene? Fabio Lamborghini ha detto proprio trattore. Sembra impossibile anche solo pensarlo, ma una volta effettuata la sostituzione, la nuova frizione prelevata da un trattore Lamborghini e montata nel cuore del motore Ferrari funziona perfettamente e non si brucia più. Questa è una notizia da dare subito al commendator Ferrari. Avanti ad Enzo Ferrari, amichevolmente, ovviamente con le buone maniere, educazione, gli spiega. Non voleva soldi, era una collaborazione tra industriali, anche se di settori diversi. Se si vanno a vedere i numeri, l'azienda di Lamborghini ha più di 1000 dipendenti contro i 50 della Ferrari. Ma come spesso accade in terra di Romagna, alla fine tutto si risolve con il confronto fra figli di contadini, orgogliosi e pronti a sostenere di aver ragione anche quando si ha torto, proprio come i genitori in passato si contendevano un metro di terra di confine. Quando glielo spiega Ferrari, caspita, quasi si inalbano. Ferrari non accetta che un costruttore, un contadino, costruttore di trattori modifichi la Ferrari, che a prescindere da quel problema era già comunque la numero uno al mondo all'epoca, il supercar di riferimento. Però Ferrari, che non è stupido, capisce che Lamborghini ha risolto il problema, ma non gli vuol dare la soddisfazione. E allora Ferrari si inventa questa cosa, gli tende questo tranello, gli dice: Lamborghini, guarda, il problema non è la frizione, il problema è lei che non è bravo a guidare la mia macchina, è lei che mi rompe la frizione. Ferrari ha capito che forse c'è una possibilità che Lamborghini abbia ragione, ma ci troviamo davanti al confronto fra due uomini con un carattere troppo forte per ammettere il proprio errore. E così il Drake consiglia a Lamborghini di continuare a costruire trattori, e che alle auto sportive ci avrebbe pensato lui. Ma questa frase non fa altro che accendere in Ferruccio Lamborghini la voglia di dimostrare di essere capace a costruire l'auto perfetta. Anzi, le dirò di più. Presto le supercar me le faccio io, così sono sicuro che vanno bene. Arrivederci. Con questa frase forte, decisa, risoluta, davanti al numero, Lamborghini torna a casa, il giorno dopo incontra tre amici, gli racconta l'episodio, il dialetto gli dirà: adesso fa vedere meno là come fa il macchino. In soli 8 mesi crea a Sant'Agata Bolognese le automobili Ferruccio Lamborghini e si prepara a produrre il suo primo prototipo. Ma per andare veloci ci vuole un motore potente, un motore pronto a rispondere alle peggiori sollecitazioni che si possano chiedere a un'auto sportiva. Un motore cattivo e indomabile, come un toro. Lamborghini deve trovare un ingegnere che sappia costruire dei motori capaci di sprigionare tutta la potenza che sta cercando. Ha saputo di un ingegnere livornese che da poco ha lasciato la Ferrari per dissapori con il grande capo di Maranello e vuole chiamarlo per vedere se è davvero bravo, come si dice in giro. I'm American man. have a big mouth when I see something that I don't like. I gotta say it. We've been driving this road for a mighty long time, paying no mind to the signs. Well, this neighborhood. Destini incrociati. Destini incrociati oggi vi racconta la nascita di una delle più potenti auto sportive di tutti i tempi, la Lamborghini. Ferruccio Lamborghini, che ha creato un colosso industriale nel settore dei trattori, ha appena avuto un diverbio con Enzo Ferrari, che lo ha colpito nell'orgoglio. Secondo il Drake, Lamborghini può solo costruire trattori e non automobili sportive. Ma il Lambo, come lo chiamano in molti, non ci sta e si prepara alla contromossa per zittire il suo rivale. Giotto Bizzarrini lavora stabilmente alla Ferrari da qualche anno. Si occupa della progettazione dei prototipi da cui derivano i modelli che vengono immessi sul mercato. Con lui collabora un gruppo di ingegneri, tra cui il giovanissimo Mauro Forghieri, ma anche Chiti, Gardini e Tavoni. Lavorare con Ferrari non è semplice. Il carattere forte del costruttore di Maranello spesso è insopportabile. E corre voce che anche la moglie del Drake, Laura, incominci a interferire un po' troppo nelle decisioni tecniche del marito. Il gruppo di ingegneri, capitanato da Chiti e Bizzarrini, espone a Ferrari il difficile ambiente in cui si trovano a lavorare e chiedono maggiore autonomia e libertà nello sviluppo tecnico dei modelli. Stanno sfidando il Drake. Enzo Ferrari ascolta con attenzione, ma non risponde e se ne va. A Maranello, quella notte viene ricordata come la notte dei lunghi coltelli, ponendola in similitudine all'episodio nel quale Adolf Hitler fece eliminare molti dei suoi stretti collaboratori dalle fedelissime SS. La mattina dopo, Ferrari fa trovare sul tavolo di ciascuno dei cosiddetti congiurati tutte le relative spettanze economiche insieme a una lettera di licenziamento con effetto immediato. Del gruppo di lavoro che ha progettato la Ferrari 250 GTO rimane solo Mauro Forghieri, il più giovane, che proprio per questo motivo non ha partecipato alla piccola rivoluzione. Durante un recente autoraduno organizzato in onore di Giotto Bizzarrini, Forghieri ha salutato l'amico livornese ricordandogli ancora una volta quel suo carattere non molto diplomatico. Detto che continui a litigare come prima, quello sempre. Rompi i coglioni come prima. Quello non si cambia. Mi fa mai. Piacere vedere. Non si cambia mai. Giotto Bizzarrini si ritrova in mezzo a una strada, quella stessa strada che alcuni anni prima gli ha portato fortuna facendogli incontrare Ferrari. Ma Bizzarrini non è certo il tipo da demoralizzarsi e neanche una settimana dopo apre uno studio di consulenza dal nome Autostar. Decide che è arrivato il momento di mettere a disposizione la sua preparazione tecnica non di una sola azienda, ma di chiunque voglia bussare alla sua porta. Se mi metto in testa qualche cosa, sono un uomo che mi piace di arrivare in fondo. La mia vettura dovrà essere una vettura molto sportiva, veloce. Ho voluto creare una vettura con tutte quelle qualità, diciamo così, che piace a me. Perché se piace a me, sono convinto che si tiri dietro un mucchio di clienti. Le parole di Ferruccio Lamborghini sono chiare nella loro semplicità. La passione che ha messo nel suo lavoro, prima con i trattori e adesso con le automobili, gli permette di raggiungere obiettivi ambiziosi. Dimostrare a Enzo Ferrari di saper costruire un'automobile più veloce della rossa è una sfida da vincere a tutti i costi. Anche Lamborghini ha saputo della notte dei lunghi coltelli e ha saputo anche che Giotto Bizzarrini, il padre della Ferrari GTO, si è messo in proprio. Con la sua Autostar fornisce consulenze sui motori per la realizzazione di prototipi innovativi, con soluzioni tecnologiche proiettate verso il futuro. I due si incontrano a Livorno, dove Bizzarrini ha i suoi uffici, e l'intesa è immediata. Li accomuna un'antipatia inconscia verso il cavallino di Maranello e il suo rude condottiero, il commendator Ferrari, ma è un sentimento che non nasconde cattiveria. Tutti e tre sono figli di una generazione che ha conosciuto la guerra e la fame. Conoscono perfettamente il vero significato del lavoro, il rimboccarsi le maniche e lo spaccarsi la schiena finché una cosa non funziona alla perfezione. sono personaggi di un'altra epoca, dove esiste la sana competizione regolata da un senso di reciproco rispetto. Bizzarrini trova in Lamborghini quell'industriale che ha uno sguardo orientato al futuro, dove se un motore è potente, bisogna lasciarlo cantare con tutta la sua forza. Lavorare su un 12 cilindri tutto nuovo, partendo dalle esperienze acquisite nella progettazione della Ferrari 250 GTO, è una sfida che Giotto Bizzarrini raccoglie senza esitare. Sul cofano del prossimo prototipo, anziché disegnare un cavallino, Lamborghini ha pronto un bel toro. L'emblema della Lamborghini è il toro, in quanto io sono nato sotto il segno del toro. In realtà, al di là dell'attinenza con il segno zodiacale, la scelta di adottare come simbolo un toro deriva dall'intenzione di Lamborghini di rappresentare in forma grafica la forza e la potenza delle proprie auto. Qualche maligno vocifera inoltre che lo sanno tutti, che i tori odiano il rosso e che Lamborghini ha scelto il toro per prendere a cornate il suo amico nemico di Maranello. Ma queste sono storie che si raccontano nei bar di Cento, dove il profumo dei campi si mischia con l'odore della benzina bruciata. Destini incrociati. A Sant'Agata Bolognese, nella sede della neonata Lamborghini Automobili, Giotto Bizzarrini e Ferruccio Lamborghini stanno lavorando alla realizzazione del loro primo prototipo, da cui deriva il modello che è destinato a entrare in produzione con il nome di 350 GTV. Dalle parole del nipote Fabio possiamo renderci conto che le differenze tra questa automobile e la sua diretta antagonista, la Ferrari, sono notevoli. Il motore di Lamborghini, da ultimo arrivato, va anche bene, va meglio degli altri, Ferrari compreso. È innovativo tecnologicamente perché il motore di Ferruccio ha 4 armi da cambio in testa, Ferrari 2. 6 carburatori a doppio corpo, Ferrari ancora non li avevo, una novità, 12 sì ma singoli. Il motore di Ferrari, che era il più potente prima di Ferruccio, sviluppava 270 cavalli. Quello di Lamborghini, prova banco, 358 cavalli. Quindi Lamborghini è davanti più tecnologicamente con l'innovazione di design. I progetti di Giotto Bizzarrini trovano finalmente quella libertà che in Ferrari non hanno mai avuto. Le limitazioni che Bizzarrini ha dovuto sopportare a Maranello scompaiono alla corte di Lamborghini, che vuole costruire un'auto veloce, potente e divertente. Un giocattolo esclusivo per pochi eletti. Ancora una volta la figura del toro campeggia sul cofano. Lamborghini però voleva che il suo toro, già a guardarlo, desse l'idea della potenza, perché potenti erano i suoi trattori e le sue automobili. Il toro più potente al mondo è il toro da combattimento, da corrida, ed ecco la posizione, è la Veronica classica del toro quando vuole attaccare il torero, dove spigiona la massima potenza. E da lì molte vetture Lamborghini, non tutte ma molte, avranno nomi di tori da corrida, o tori famosi. Miura, Uraco, Iaramis, Leo, Spada, Diablo, Gagliardo, Mursiello, Doreventon, sono tutti attinenti alla tauromachia. Giotto Bizzarrini progetta i motori 12 cilindri che vengono installati sui primi due modelli prodotti da Lamborghini, la 350 GTV e la Miura, vero capolavoro di estetica e meccanica, che diventa in pochissimo tempo uno dei modelli di auto sportiva più ricercata nel mondo. Sono auto costruite da artigiani con metodologie che non considerano l'utilizzo della catena di montaggio. Basti pensare che ogni singolo telaio è modellato a colpi di mazza su dime saldate a mano. Quindi è impossibile trovare su uno stesso modello due auto uguali. Ma Giotto è uno spirito libero e non gli piace lavorare sempre con le stesse persone. Il divorzio con Lamborghini avviene in poco tempo. La causa principale è da attribuire al fatto che Bizzarrini sostiene che per migliorare e perfezionare le auto di serie occorre partecipare alle corse, idea alla quale Lamborghini è decisamente contrario. Nel 1972 Ferruccio Lamborghini decide di ritirarsi a vita privata, vendendo l'azienda di famiglia a un industriale svizzero che a sua volta cederà il marchio Lamborghini a una multinazionale tedesca dell'auto. E in ogni caso, il mito della Lambo continua e rimane come uno degli esempi più prestigiosi dell'eccellenza industriale italiana. Il toro della Lamborghini sfreccia sulle strade di tutto il mondo, ma non per battere record di velocità. Anzi, in Italia ci sono un paio di Lamborghini che questi limiti li fanno rispettare. Sono le due auto donate dall'azienda di Sant'Agata bolognese alla Polizia di Stato, equipaggiate per combattere ad armi pari la malavita organizzata e per dare un veloce supporto al soccorso sanitario. Le abbiamo viste sfilare all'ultima parata del 2 giugno, davanti al palco delle autorità. Questa che vedete in fondo è la Lamborghini Gallardo, l'auto donata alla Polizia Stradale, equipaggiata anche per il soccorso sanitario e soprattutto per il trasporto di plasma e organi umani. La strada che porta a Quercianella ne ha viste passare tante di automobili. Persino la Spider su cui Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant sfrecciano nella scena finale del film Il sorpasso di Dino Risi. E chiedendo a qualcuno dei più anziani avventori del bar Dancing Pasquini, il locale in voga agli inizi degli anni 50, se ricordano una Topolino azzurra modificata nella carrozzeria e veloce come il vento, di sicuro qualcuno farà il nome di Giotto Bizzarrini. Oggi Giotto Bizzarrini ha 85 anni ed è sempre arzillo come quando scendeva dal passo della Betone provando le ultime modifiche apportate ai suoi motori. Negli anni 50, per costruire un prototipo ci vuole poco tempo. Le stesse cose che oggigiorno richiedono anni di ricerca e sviluppo, Giotto le fa da solo in poche settimane. Lavora senza computer e anche senza calcolatrice. Tutti i calcoli vengono eseguiti con carta e penna. Ma per fare certe cose bisogna avere una dote speciale. Bisogna sentire l'automobile, parlarle, farla crescere nella propria mente come una figlia e poi trasferire questa immagine sulla carta. Certi artigiani dell'automobilismo non esistono più. Eppure il telefono di Giotto continua a squillare al Dipartimento Industriale dell'Università di Roma, dove Bizzarrini svolge ricerche per conto dei più importanti consorzi automobilistici. Dei tempi passati, Bizzarrini conserva un ricordo indelebile. A lui va il merito di avere contribuito al successo sia della Ferrari, sia della sua principale antagonista, la Lamborghini. Un'auto nata per una sfida, vinta da un costruttore di trattori.